Caf, per il glorioso Corano. E invece si stupiscono che sia giunto loro un ammonitore della loro gente. Dicono i miscredenti, questa è una cosa strana. Ma come, quando saremo morti e ridotti in polvere? Sarebbe tornare da lontano. Ben sappiamo quel che la terra divorerà. Presso di noi c'è un libro che conserva ogni cosa. E invece tacciono di menzogna la verità che è giunta loro, ed ecco che sono in grande confusione. Non osservano il cielo sopra di loro come lo abbiamo edificato e abbellito, e senza fenditura alcuna? E la terra l'abbiamo distesa, vi infiggemmo le montagne e vi facemmo crescere ogni specie di meravigliosa vegetazione. Invito questo alla riflessione e monito per ogni servo penitente. Abbiamo fatto scendere dal cielo un'acqua benedetta, per mezzo della quale abbiamo fatto germogliare giardini e il grano delle messi, e palme slanciate dalle spade sovrapposte, sostentamento dei nostri servi. Per suo tramite rivivifichiamo una terra che era morta, in egual maniera avverrà la resurrezione. Prima di loro tacciarono di menzogne i nostri segni, il popolo di Noè e quelli di Arras, i Thamud e gli Ad, e Faraone e i fratelli di Lot e le genti di Alaika e il popolo di Tubba. Tutti quanti accusarono di menzogne i messaggeri. La mia minaccia dunque si realizzò. Saremmo forse spossati dalla prima creazione? No, sono invece loro ad essere confusi a proposito della nuova creazione. In verità siamo stati noi ad aver creato l'uomo e conosciamo ciò che gli sussurra l'animo suo. Noi siamo a lui più vicini della sua vena giugulare. Quando i due che registrano, seduti alla sua destra e alla sua sinistra, raccoglieranno il suo dire, l'uomo non pronuncerà nessuna parola senza che presso di lui ci sia un osservatore solerte. L'agonia della morte farà apparire la verità. Ecco da cosa fuggivi. Sarà soffiato nel corno. Ecco il giorno della minaccia. Ogni anima verrà accompagnata da una guida e da un testimone. Uno dirà, davvero trascuravi tutto ciò? Ora abbiamo sollevato il tuo velo e quindi oggi la tua vista è acuta. E dirà il suo compagno, ecco quello che ho pronto. O voi due gettate nell'inferno ogni miscredente testardo, nemico del bene, trasgressore e scettico, che pose a fianco di Allah un'altra divinità. Gettatelo nell'orrendo castigo. Dirà il suo compagno, Signore, non sono stato io ad incitarlo alla ribellione, già era profondamente traviato. Dirà Allah, non polemizzate al mio cospetto, già vi resi nota la minaccia. Di fronte a me la sentenza non cambia, né sono ingiusto verso i miei servi. Il giorno in cui diremo all'inferno, sei pieno? Esso risponderà, c'è altro da aggiungere? Il giardino sarà avvicinato ai timorati. Ecco quel che vi è stato promesso, a voi e a chi è pentito, a chi si preserva dal peccato, a chi teme il compassionevole nell'invisibile e ritorna a lui con cuore contrito. Entratevi in pace. Questo è il giorno della perpetuità. Colà avranno tutto quel che vorranno, e presso di noi c'è ancora di più. Quante generazioni sterminammo prima di loro, che pure erano più potenti di loro, e che inutilmente cercarono, percorrendo le contrade, di sfuggire al castigo. In ciò vi ho un monito per chi ha un cuore, per chi presta attenzione e testimonia. Già creammo i cieli, la terra e quel che vi è fra mezzo, in 6 giorni, senza che ci cogliesse fatica alcuna. Sopporta dunque con pazienza quel che ti dicono, e glorifica il tuo Signore prima che si levi il sole e prima che tramonti. Glorificalo in una parte della notte e dopo la prosternazione. Ascolta, il giorno in cui l'araldo chiamerà da un luogo vicino, il giorno in cui davvero sentiranno il grido, quello sarà il giorno della resurrezione. Siamo noi che diamo la vita e che diamo la morte. A noi ritorna ogni cosa. Il giorno in cui la terra si spaccherà all'improvviso, ci sarà facile radunarli. Ben conosciamo quello che dicono. Tu non sei tiranno nei loro confronti. Ammonisci dunque con il Corano chi non teme la mia minaccia.